Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata, bentornati a Magazine 24, il nostro sguardo settimanale ai periodici in edicola, anche ai mensili se c'è qualche cosa di interessante e qualche pubblicazione extra che possa far piacere leggere o consultare. Vista l'ora, direi che innanzitutto si potrebbe cominciare con un caffè. Perché vi parlo del caffè? Perché ne parla il mensile del Sole 24 Ore, che è in edicola già da qualche giorno, dalla settimana scorsa. Chi ci ha seguito sabato scorso sa che abbiamo già segnalato alcuni dei contributi presenti su questo mensile che è in vendita con il Sole 24 Ore. All'interno di Il, nella parte che è intitolata alle tendenze, c'è un bel servizio sul caffè, sull'espresso casalingo. Perché? Perché la tendenza appunto è quella delle macchine del caffè, le macchine per il caffè e la nuova socialità. Questo è il legame che viene proposto dal magazine del Sole 24 Ore. Spiega Elena Dall'Orso. Aumentano gli scambisti di cialde e i degustatori degli aromi esotici. Addio vecchia moca e affollato bancone. La tazzina è una questione privata, quindi farsi il caffè a casa con gusto un po' per tutti, non solo per chi lo consuma ma anche per gli invitati, gli ospiti che si possono avere. E si spiega poi nell'articolo appunto della Dall'Orso. In questo momento i piccoli elettrodomestici che consentono di prepararsi l'espresso stanno vivendo un momento di grande popolarità, permettono a chiunque di avere a domicilio la tazzina perfetta e non solo. Si parlava di rituali, c'è chi diventa un fan delle cialde e dei bussolotti e quindi ama anche sperimentare gusti nuovi, ascoltare il parere di altri membri della sua community. Al mondo, dichiara Richard Girardot, che è l'amministratore legato della Nespresso, è uno dei marchi che potete trovare normalmente in commercio, si bevono 8.000 tazzine di Nespresso al minuto. Questa è la stima dell'amministratore delegato. Nespresso è un marchio leader, viene definito marchio leader delle macchine casalingue, si è conquistato un'altissima percentuale di pubblico, specialmente femminile, con le campagne pubblicitarie, le ascoltatrici le ricorderanno, affidate a George Clooney. La vendita delle cialde, comunque, di questi piccoli elettrodomestici è una cosa molto seria dal punto di vista economico. Il Financial Times ha spiegato che questa vendita di cialde per macchine per caffè espresso aumenta del 30% all'anno. Nel 2008 l'acquisto di macchine espresso in Gran Bretagna, quindi non un paese considerato a forte consumo di questo tipo di caffè, è duplicato rispetto al passato. Però la tendenza, riferisce sempre Il, riguarda tutta l'Europa, nazioni espressofile comprese come l'Italia. L'Italia ha 5,8 kg di macchine di caffè a testa all'anno, la Francia e la Spagna. Financial Times poi legava il successo di questo tipo di preparazione del caffè a domicilio alla catena Starbucks, che dal 44 ha proposto più o meno 55.000 combinazioni a base di caffè. Poi c'è tutto un sistema naturalmente di marketing che accompagna, come sanno gli utenti, coloro che possiedono alcune di queste macchine dell'una o dell'altra marca, c'è appunto tutta una tendenza a farne una comunità o con i siti internet o creando insomma dei legami tra chi possiede le stesse macchine. Monica D'Ascenzo, sempre su Il, avvisa poi che il caffè è una cosa molto seria già dal momento della sua coltivazione, perché ha una produzione mondiale che raggiunge annualmente i 5,9 milioni di tonnellate. Questo numero fa sì che il caffè sia, dopo il petrolio, la materia prima più trattata sui mercati finanziari. Solo l'Italia ne importa 324.000 tonnellate all'anno e il caffè dell'elite nel mondo è l'espresso italiano, anche se non sempre, avverte la D'Ascenzo su Il, la nostra ricetta, la ricetta italiana, viene rispettata. Qualche volta vengono proposte delle varianti curiose che ad esempio comprendono anche una variante del caffè salato. Le prossime frontiere sembrano essere quelle del caffè al formaggio o alla frutta, ma forse a quest'ora del mattino appunto non è il caso di lanciarsi in questi esperimenti. Allora questo, naturalmente, tutto questo lo trovate su Il, in edicola con il Sole 24 Ore in questi giorni. Allora andiamo da una passione a un'altra, perché su Famiglia Cristiana Fulvio Scaglione e Giampaolo Ormezzano si occupano di una passione sempre più dilagante. Qualche volta ne abbiamo parlato, perché non è il primo caso in cui i settimanali seguono questo tipo di passione. Mi sto riferendo al podismo, o più precisamente ai maratoneti. Un mondo di podismo di resistenza che Giampaolo Ormezzano scrive coloritamente un fachirismo quasi podistico. C'è un mondo grande, avverte Ormezzano su Famiglia Cristiana, e un mondo piccolo, si va dalla maratona di New York a quella italiana tutta sulla spiaggia sabbiosa di San Benedetto del Tronto. Però è interessante notare le cifre, perché è un mondo consolidato. In Italia l'anno scorso ci sono stati 53.583 partenti per una sessantina di maratone benedette dalla federazione. A Roma c'erano più di 10.000 partenti, a Firenze 7.000, a Venezia più di 5.000. Non sempre, tra l'altro, ci si ferma alla aurea misura, alla classica misura dei 42 km e 195 metri, perché ci sono prove più lunghe su tutte la 100 km del passatore, che va da Firenze a Faenza su e giù per 980 metri del passo della Colla. Poi c'è Torino, che si è arrivata una pioniera anche con la maratona classica, ma si è data ora un parco come stadio, il Turin Ring Marathon, per gare di bambini e 24 ore dei grandi. Il mondo del podismo è un mondo interessante, naturalmente, anche dal punto di vista economico, anche per chi produce tutte le attrezzature necessarie. Qualche numero che ricavo sempre da Famiglia Cristiana: Roma ha appunto la maratona più popolosa d'Italia, oltre 10.000 iscritti, la prossima si corre il 21 marzo del 2010. Firenze si colloca al secondo posto, 7.200 persone nel 2008, e si corre alla fine di novembre. Poi la terza maratona in Italia per numero di iscritti è quella di Venezia. Corre il 25 di ottobre, è naturalmente in assoluto la più suggestiva per lo scenario, ha avuto oltre 5.000 iscritti. E poi Treviso, non la maratona di Milano come forse qualcuno poteva aspettarsi, ma Treviso, che si è collocata al quarto posto nel 2008 per numero di partenti, con oltre 4.500 iscritti. Nel 2009 mancherà il confronto tra Treviso e Milano, tra l'altro, perché Milano sposta la sua data dal novembre all'11 aprile del 2010. Tutto questo su Famiglia Cristiana, questo interessante servizio dedicato al podismo, che è una relativamente nuova passione che è esplosa anche qui in Italia e che sta coinvolgendo sempre più persone. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24, stavamo parlando di passioni. La prima passione è quella del caffè, che abbiamo trovato su il magazine del Sole 24 Ore. La seconda, quella della corsa, della maratona, che invece viene spiegata questa settimana da Famiglia Cristiana. Parliamo di un'altra passione, una passione molto più recente, è quella di Win for Life. Ora, per i pochi che ancora non ne avessero sentito parlare, è la nuova lotteria, il nuovo gioco che è stato lanciato da poche settimane e che ha provocato davvero una sorta di febbre collettiva, nel senso che nei primi giorni addirittura c'è stata una carenza delle schedine necessarie per giocare, tanto era il numero di coloro che volevano giocare a questa lotteria. Questa è la famosa lotteria, appunto, che consente al vincitore di avere una rendita, non una vincita quindi complessiva in un colpo solo, ma una rendita da 4.000 euro al mese, da dividere se i vincitori sono più di uno. Se ne occupa, tra gli altri, perché se ne occupano diversi settimanali, ma se ne occupa Panorama con un articolo di Fabrizio Paladini. Il titolo: se potessi avere 4.000 euro al mese. Si chiama Win for Life, scrive Panorama, è il nuovo gioco che promette una rendita fissa per 20 anni. Ecco, questo forse è abbastanza importante, cioè notare che non è, nonostante il titolo For Life, la rendita non è vitalizia, ma una durata predeterminata, appunto, di 20 anni. In meno di 3 settimane è diventato una mania. Viaggio nelle ricevitorie affollate di italiani con un solo sogno: vivere da pensionati. Allora, come funziona? Paladini è andato un po' in giro per ricevitorie, tabaccherie, posti dove si può giocare questo Win for Life e ci spiega che ogni giorno Win for Life assicura 13 chiamate, cioè vengono fatte 13 estrazioni, una ogni ora, dalle 8 alle 20. Ci sono quindi 13 possibilità al giorno di vincere, fanno 91 possibilità a settimana, contro le appena 3 del Super Enalotto. E infatti, spiega Paladini, giocano tutti. Il tabaccaio dove lui si è recato a Roma dice: apre la baracca alle 7, chiude alle 21, il tempo di sistemare il bancone, già arrivano quelli della prima estrazione della giornata prevista appunto per le 8. Giocano tutti anche perché si gioca con solo un euro e c'è la fila, un popolo, lo descrive Paladini, per lo più garbato e speranzoso. Dice una delle giocatrici: al di là delle probabilità di vittoria, vincere 70 milioni di euro sarebbe stressante, ho saputo di tanti che si sono rovinati l'esistenza. Invece 4.000 euro in più al mese non ti permettono una vita da sceicco, ma te la migliorano molto. E queste considerazioni, queste e altre simili considerazioni si trovano poi in tutto l'articolo di Paladini su Panorama. In un riquadro a parte, Panorama poi spiega che la dea bendata, cioè il momento dell'estrazione per Win for Life, è a Milano. Spiega che nelle prime 2 settimane di vita questa lotteria ha incassato 102 milioni di euro, 23 milioni dei quali sono stati devoluti all'Abruzzo. Sono stati distribuiti 66,6 milioni di premi. Ci sono stati 37 fortunati che si sono aggiudicati la rendita ventennale. Non c'è però, scrive Paladini, un bambino bendato che estrae i numeri alla presenza dell'immancabile notaio. Il grande sogno degli italiani è affidato a un software che estrae i numeri, fotografa i file delle estrazioni, li riversa su dei CD che vengono custoditi in cassaforte a disposizione di una commissione di 8 persone che ha il compito di verificare periodicamente regolarità e sicurezza del gioco. Il software è naturalmente a prova di intrusione. Le estrazioni avvengono nella sede della Sisal a Milano. C'è un settore blindato appunto in questa sede al quale possono accedere solo pochissimi addetti della società, e con un click sul computer il programma provvede a sfornare i 20 numeri sui quali si basa il gioco e che decidono poi della possibilità per qualcuno di noi di avere appunto una rendita da 4.000 euro al mese per 20 anni. E allora, visto che parliamo di computer, il mensile Wired di questo mese propone una cosa molto interessante. Si tratta di una sorta di Galateo del 3000. Tecton lo chiamano, anziché Bonton, e prevede tutta una serie di consigli per utilizzatori più o meno forti delle nuove tecnologie. Limitiamoci alle cose che possono interessare tutti. Poi, ripeto, su Wired potete trovare in realtà indicazioni che si riferiscono anche ai famosi social network, a Google e ad altre particolarità dell'utilizzo dei nuovi media. Ma ad esempio gli SMS, si possono mandare SMS a qualcuno anche se ci si trova in compagnia. Avverte Wired: per i più tradizionalisti mandare SMS in presenza di qualcuno è da maleducati, ma è vero. Se si osservano gli adolescenti di oggi, ci sono esempi comportamentali dell'era futura, e per loro messaggiare mentre si è in compagnia è una cosa del tutto normale. Anzi, gli antropologi culturali che hanno analizzato il fenomeno SMS tra adolescenti concordano. Non si tratta solo di una gratificazione immediata. Secondo Mimi Ito, che è un'esperta di uso e costumi telefonici tra teenager giapponesi, mandare SMS a persone che non sono presenti in un certo momento fa sentire ognuno di noi parte di una rete sociale più estesa. E molti non fanno in realtà distinzione tra la socializzazione che avviene di persona e quella che avviene tramite cellulare. Quindi si può ricavarne, e quello che fa poi Wired, una sorta di regola: se si sta messaggiando a qualcuno, si sta mandando un messaggio a qualcuno parlando dell'evento a cui si sta partecipando, la cosa è considerata ben educata. In caso contrario risulta invece un estraniarsi abbastanza riprovevole anche nell'epoca, diciamo, della digitalizzazione più sfrenata. E ancora da Wired, ancora sul telefonino, l'auricolare è lecito tenersela sempre addosso, all'orecchio, oppure è considerata una cosa sgradevole per gli altri? E secondo questo galateo del tempo moderno proposto da Wired, l'auricolare, ci si riferisce naturalmente soprattutto a quelle senza fili, non è da tenere all'orecchio quando non si sta parlando al telefono. Quindi uno dovrebbe metterla e toglierla, evitando di presentarsi appunto agghindato dell'auricolare, una sorta di orecchino molto particolare e molto tecnologico. E infine le suonerie, vabbè, su questo devo dire il galateo del 3000 non può essere molto diverso da quello di ogni tempo, cioè non è il caso, diciamo così, di assordare tutta una comunità con una suoneria troppo elevata, però bisogna anche stare attenti agli auricolari che sono molto rumorosi, anche quelli dei lettori MP3, che a volte vengono tenuti a volumi molto alti e rendono in realtà percepibile la musica che noi stiamo sentendo anche a tutti gli altri che ci stanno vicino. E poi agli schermi super luminosi, perché l'abitudine di guardare l'ora, di guardare lo schermo del cellulare, ad esempio al cinema, può dare fastidio, specialmente con i nuovi schermi molto grandi, può creare appunto un'illuminazione in quel momento di disturbo per le altre persone che stanno seguendo il film. Sono alcuni dei consigli di questo galateo dei tempi moderni che trovate su Wired. E allora, siccome vivere nei tempi moderni non è semplicissimo, come abbiamo visto, persino la tecnologia comporta dei problemi di aggiornamento del galateo, volevo ricordarvi che in questi giorni con il Sole 24 Ore stiamo proponendo un instant book, si chiama Il nuovo ABC dell'economia. Ci sono parole italiane e straniere che hanno davvero spopolato in questi ultimi mesi, in quest'ultimo anno, e a cui abbiamo dovuto in qualche modo tutti abituarci. Trovate in questo volume, che appunto è in vendita con il quotidiano, termini come debito pubblico, cartolarizzazione, ma anche questioni decisamente più nuove meno consuete, come possono essere Chapter 11 oppure IAS 39, dal nome appunto di questo principio contabile di cui si è fatto un gran parlare, e via via tutta una serie di termini che possono essere più o meno noti, magari di cui si è sentito molto parlare ma dei quali non si sa bene il significato. Ve ne segnalo uno in particolare oggi, Flexicurity, perché Flexicurity, leggo dal dizionario, dall'ABC dell'economia, è nato nel dibattito politico dei paesi del nord Europa già negli anni 90. Indica il modello di mercato del lavoro nel quale a una notevole flessibilità in materia di assunzioni e licenziamenti si accompagna un'altrettanto estesa sicurezza per coloro che si trovano in condizione di disoccupazione. Flexicurity, appunto, che deriva da flessibilità e sicurezza. E questa è una delle molte parole che potete trovare nel nuovo ABC dell'economia in vendita in questi giorni con il Sole 24 Ore. 300 parole per capire cosa cambia, cosa è cambiato dopo la grande crisi. Con questo abbiamo concluso la puntata di oggi. Io ringrazio Fabio Cantadore per l'assistenza in regia, Vittoria Mussini e Emanuela Sicuro che mi hanno aiutato a preparare questo programma. Vi do appuntamento a sabato prossimo.